Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Cominciamo da Le Monde perché dopo averne tanto parlato ci siamo quasi. Tra due giorni si vota in Grecia, le famose elezioni politiche anticipate legate al fatto che il Parlamento non è riuscito a eleggere un nuovo presidente, quindi sono scattate appunto, è scattata la convocazione per le elezioni anticipate. Sappiamo tutti che grande favorito è il partito Syriza, il partito di Alexis Tsipras, e allora questa settimana i giornali europei se ne sono molto occupati, a cominciare da Le Monde, vi dicevo, che ha pubblicato un'intervista a Marine Le Pen, la leader del Fronte Nazionale francese, che a sua volta, nonostante nelle ultime settimane, dopo i fatti di Charlie Hebdo, sia un po' scesa nei sondaggi, resta comunque una delle favorite per le prossime elezioni politiche francesi. Lo sappiamo, leader di un movimento di una destra, potremmo anche chiamarla estrema, molto nazionalista, anti-immigrati, ed è lei che ha dato il suo sostegno a Syriza, che invece, come sappiamo, è un partito, possiamo dire, di estrema sinistra. Secondo Marine Le Pen, la vittoria di Syriza darebbe veramente una scossa all'Unione Europea. Lei naturalmente ha usato il suo linguaggio, ha parlato di lotta comune contro il totalitarismo dell'Unione Europea e dei suoi complici mercati finanziari. Ha detto, naturalmente queste dichiarazioni, queste parole non fanno di me un attivista di estrema sinistra, non sia mai, ma siamo d'accordo con tutto quello che riguarda l'Unione Europea. E quindi accoglieremo favorevolmente la loro vittoria. Aggiungiamo noi che Syriza probabilmente vincerà, ma dovrà fare una specie di grosse coalizioni, quindi coinvolgendo anche partiti più moderati, che non sono né di estrema sinistra né di estrema destra. E aggiungiamo anche che in realtà Alexis Tsipras, la settimana scorsa abbiamo visto, l'aveva fatto con il quotidiano spagnolo, questa settimana l'ha fatto con Financial Times, ha dichiarato che chi sbandiera come magari come motivo di opposizione al suo partito il fatto che con Syriza al governo la Grecia non manterrà gli impegni con l'Europa e soprattutto uscirà dall'Eurozona, Alexis Tsipras ci ha tenuto a sottolineare sul più importante quotidiano finanziario europeo, Financial Times, che non è così, che quello che lui vuole fare, lo sta dicendo in tutti i modi, è di cambiare leggermente le regole imposte dall'Unione Europea e dalla Troica, cioè Unione Europea, Fondo Monetario Internazionale, ma non uscire dall'Eurozona né tantomeno uscire dall'Unione Europea. Torniamo un attimo a Le Monde, però per una questione che ci riguarda un po' noi italiani e che ha inorgoglito giustamente molte persone. Le Monde ha messo in prima pagina il successo della serie Gomorra, che inizialmente distribuita soltanto in Italia, tratta a sua volta dal film che era tratto a sua volta dal libro di Roberto Saviano, egli poi ha anche collaborato alla sceneggiatura del film e della serie televisiva. Ecco, appunto, dopo essere uscita in Italia con grande successo, sta uscendo in tutta Europa e in particolare in Francia, dove è uscita questa settimana scorsa, il primo episodio è stato trasmesso ed è stato uno dei maggiori successi dopo essere stato uno dei maggiori successi della TV italiana, si avvia a diventare un grande successo anche in Francia, oltre al successo di pubblico, perché ha avuto uno share vicino al 10%, ha avuto anche un grandissimo successo di critica. Abbiamo parlato di Syriza su Financial Times, ma Financial Times naturalmente si è occupato tantissimo anche di Banca Centrale Europea, del famoso quantitative easing. Io non mi soffermo perché sapete la decisione è arrivata dopo essere stata invocata per settimane se non per mesi, è arrivata giovedì, ne avete letti due giorni fa, quindi ne avete letto sui quotidiani, ne avete sentito parlare alla radio. Ci spostiamo un attimo su Financial Times perché Financial Times si occupa non di si è occupato anche naturalmente di Banca Centrale Europea e del suo governo Mario Draghi, ma anche delle banche europee in generale, e questa è una notizia che secondo me non dovremmo così lasciarci sfuggire, ma magari dovremmo anche vedere se nelle prossime settimane, nei prossimi mesi verrà confermata. La notizia è questa: che le banche europee hanno incrementato la vendita dei pacchetti di prestiti immobiliari a rischio in loro possesso. Ci ricordiamo quasi tutti, credo, che questi prestiti immobiliari a rischio, i cosiddetti mutui subprime o anche subprime, sono stati una delle cause principali della grande crisi economico-finanziaria innescata d'accordo dal crack di Lehman Brothers nel 2008, ma poi sicuramente peggiorata da tutto quello che c'era dietro, tra cui appunto i mutui subprime. Secondo Financial Times, che cita una ricerca di CBRE Capital Advisors, nel 2014 le banche europee hanno aumentato del 133% le vendite dei loro portafogli immobiliari a 49 miliardi di euro. I principali private equity americani erano coinvolti nel 79% delle transazioni, facendo lievitare l'entità delle intese, che nel 2014 in media sono salite a 683 milioni di euro dai 441 milioni del 2013. Passiamo a El País. El País ha dato voce a Thomas Piketty, sapete, l'economista francese molto controverso, ha pubblicato questo libro Il capitale del XXI secolo, che naturalmente nel titolo richiama il famosissimo libro di Karl Marx, ma che in realtà ha tesi molto diverse. Poi è diventato anche famoso nelle settimane scorse perché ha rifiutato la Legion d'Onore francese, dicendo non mi interessano questi premi, cercate piuttosto di magari ascoltare alcune delle cose che dico e prendere le necessarie misure. E Thomas Piketty si è in questo caso pronunciato sul discorso che ha fatto Barack Obama per il State of the Union, che sta per Union of the United States. È una specie di appunto proprio di radiografia che i presidenti americani fanno ogni gennaio su come sta l'Unione, come stanno gli Stati Uniti. Siccome Barack Obama, lo avete sentito, è tornato su uno dei temi cari a lui in questa seconda parte del suo secondo mandato, che è la tassazione minima per i più ricchi, e con questa tassazione, ha detto Barack Obama, potremmo aumentare gli investimenti nell'istruzione, che è il vero capitale di un paese, cioè migliorare le scuole e l'istruzione. E Thomas Piketty ha detto: io lo sto dicendo per tutto il mondo, per il mio paese, la Francia, per l'Unione Europea. Sono molto contento che anche Barack Obama lo abbia detto, e forse questo darà una spinta appunto alle mie posizioni, che poi non sono solo le sue ma anche quelle di altri economisti, per cambiare la situazione appunto negli Stati Uniti, ma Piketty si augura soprattutto in Europa. Torniamo un attimo in Spagna su El País, perché questo è un anno in cui ci saranno molte elezioni, sappiamo ci saranno in Gran Bretagna, ne abbiamo parlato, ma ci saranno anche in Spagna e sono previste per il 27 settembre, sono elezioni anticipate in Catalogna, e abbiamo visto nel 2014 la mancata, per fortuna dico io, secessione della Scozia dall'Unione Europea, dalla Gran Bretagna scusate, con tutto quello che poi avrebbe implicato nei confronti dell'Unione Europea, e ora c'è un altro fronte, che è quello della Catalogna. Anche la Catalogna vorrebbe appunto l'indipendenza dalla Spagna, e da qui anche in questo caso si innescherebbe la questione dell'indipendenza o no dall'Unione Europea e dell'uscita o no dall'Eurozona. E allora El País, il leader di Esquerra Repubblicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha assicurato che se vinceranno il prossimo 27 settembre in questo referendum, sarà l'inizio dell'indipendenza, e come vi dicevo questo potrebbe avere delle conseguenze anche su altri paesi europei dove ci sono spinte indipendentiste di alcune regioni, e poi proprio immediatamente le conseguenze su come si pone una regione indipendente di un paese che appartiene all'Unione Europea nei confronti dell'Unione Europea. Passiamo a Irish Times, che non citiamo molto spesso, ma questa settimana ha raccolto un'intervista alla numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che commentava la possibilità di quantitative easing, e diceva: più sarà mutualizzato più sarà efficace, e comunque aveva già dichiarato, e quindi sarà stata poi accontentata dalla decisione di Mario Draghi, è necessario, però ha ribadito: non può essere soltanto la Banca Centrale Europea, ma deve essere poi aiutata, sostenuta in questa decisione da tutta l'Europa, da tutte le altre banche europee. Visto che abbiamo parlato di Grecia, torniamo un attimo a Katimerini, che è un quotidiano greco, e qui il suo direttore Alexis Papalechas, a proposito delle elezioni, che sapremo tra due giorni come andranno, perché sono fissate appunto per lunedì 25 gennaio, e il suo direttore scrive: verso un governo di unità nazionale. Ho detto all'inizio, l'ho chiamato un po' grosse coalizione, nel senso che i sondaggi dicono che Syriza vincerà, ma non avrà la maggioranza assoluta, quindi dovrà mettersi d'accordo. ricordo. E scrive Papa Lecia, se vi ricordo, per chi volesse leggere tutto il suo articolo, che lo trovate su quel sito che sapete io adoro, che è presseurope.eu, che traduce per noi che non sappiamo tutte le lingue che vorremmo sapere, gli articoli appunto di alcuni giornali come quelli greci. Scrive Papa Lecia: a prescindere dal risultato delle politiche, la Grecia finirà con l'essere governata da un governo di ampio consenso, perché soltanto così Atene potrà affrontare i propri creditori. E scrive ancora, scrive Papa Lecia: a tutti noi piacerebbe avere una sfera di costrallo che ci mostri che cosa accadrà non dopo le elezioni, ma nei prossimi mesi. Alcuni prevedono che dopo 70 anni all'opposizione la sinistra finalmente conseguirà una vittoria, altri pensano che la sinistra al governo potrà durare poco e altri ancora si aspettano un cambiamento radicale. Prevedere con esattezza cosa accadrà è diventato sempre più difficile e nessun sondaggista lo potrà veramente dire. Era purtroppo l'ultima segnalazione, però ripeto, su presseurope.eu trovate tutto l'articolo. Un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.